Jek, duj, trin, shtar. Sono il mago, sono il re di denari. Se con le speranze vuoi giocare, sono la finestra sul tuo cammino, il futuro remoto del destino. C'è una donna che guarda la luna, porta l'amore e la fortuna. Mischio le carte con la vita, la sorte con la volontà. Mischio le carte con la vita, leggo il tempo che verrà. Parlo un linguaggio di simboli e colori, dalle coincidenze trago presagi. Per scaldarmi bevo un bicchiere di sole. Le mie scarpe sono gatti randagi. La regina incontra il suo fante, sul carro viaggiano gli amanti. Mischio le carte con la vita, la sorte con la volontà. Mischio le carte con la vita, leggo il tempo che verrà. Pelle.